Ore 7 e 4 minuti primi. Concedeteci questi 4 piccoli minuti di ritardo per un venerdì 9 di novembre che inizia veramente alla stragrande, almeno qui negli studi di Rock FM. Mi sia testimone Marco Garavelli. Buona giornata anche a lei, Marco. Aug. Allora, ovviamente come ogni postazione lavorativa all'alba del 2007, anche Rock FM fondamentalmente è tecnologizzata, forse questo è l'aggettivo sbagliato. Insomma, abbiamo qualche computer che lavora per noi. Quest'oggi sembra che qualcuno abbia fatto una macumba, mi sembra ufficiale la cosa, no, guarda, sta riprendendo, però si vede che c'è qualcosa che non va, Va bene, diamo inizio alla 48esima puntata, no, avevo detto che non lo dicevo più, diamo inizio alla 126esima puntata di Pane, Burro e Rock and Roll, che inizia qui, ma ve lo posso garantire, non so quando finirà. Dipende, fino a quando il computer ci assiste, noi si va avanti. E poi passiamo ai vinili. No? Chi ci ferma noi? Nessuno. Pane, burro e rock and roll. La tua colazione rock. Che la tecnologia ci assista. Pane, burro e rock and roll. Cioè, ha dell'inquietante. Ha dell'inquietante. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Allora, vediamo di gestire la puntata di quest'oggi. Io veramente vi chiedo scusa, ma vi confesso nello stesso momento nel quale vi chiedo scusa per quello che dovrà accadere quest'oggi, so già che accadrà qualcosa, e devo confessarvi che un po' mi piace affrontare così l'avventura di sapere che le macchine sulle quali sto facendo affidamento non hanno nessuna intenzione di aiutarmi quest'oggi. La vivo molto come sfida. Tra l'altro, in questo momento due macchine mi stanno aiutando e due su due hanno qualcosa che... Lo capisci, no? Ormai, dopo anni che lavori con i computer, lo intuisci, che ti... Capito? C'è quel colore lì che è diverso, ci sono quei numeri lì che dovrebbero girare e invece si inceppano. Si intuisce che c'è qualcosa che non andrà. Voi là fuori direte, a me che me fregano, io metto le mani avanti, capito? Essendo un serio professionista... Ormai abituato a fare una trasmissione perfetta, non vorrei, capito, che poi sentite qualche intoppo e dite: ah, ma qui c'è altroni là che non sono capaci. Benvenuti a questa puntata di venerdì che sarà delirante. Questo è poco ma è sicuro. Un saluto dall'Ariele, un saluto dal nostro regista Spadino. E tra pochi minuti qui con noi il nostro buon Roberto Freakantoni. Wey! Oh. E così, in onore della tempesta antitecnologica che ha investito i nostri studi stamane, si va con una Riders on the Storm. Stavo pensando che cosa sicuramente non mi abbandonerà mai. Mister Trombetta, lui guarda non si spegne mai, e i radioascoltatori, no? E allora stiamo in una botte di ferro. Benvenuti. Riders on the Storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone. An actor out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road. Yeah. Con la tempesta dei Doors, che sembra che la cosa sia tornata, ma per il verso giusto, vediamo, vivremo insieme l'attimo, anche quest'oggi come facciamo ormai tutte le mattine, dalle 7 alle 9, Riders on the Storm, The Doors, 7 e 12 minuti primi, mi sto quasi tranquillizzando, sembra che sia tornato tutto a posto, sicuramente sembrano funzionare il lettore dei vostri sms, quindi vi ricordo 335 100 77 77, la nostra coordinata via sms attraverso le quali, insomma, ce la chiacchieriamo un po', riceviamo parecchie proposte. Vi ricordo come ogni giorno anche la casella di posta elettronica, che è ariel@radiorockfm.com. ringrazio subito al volo la patentata 552, che mi invia anche un paio di scatti fotografici della serata dell'Alcatraz, e anche un saluto da Livorno, perché non si firma l'amico, dopo la leggo con calma, vedo se scopro, Federico, eccolo qui, e no, c'era qualcuno che mi aveva mandato questa qui, eccola qua, un tostapane di pane, burro e rock and roll, sub da fi. Tra l'altro tutte le immagini che state inviando via mail piuttosto che alle coordinate del sito radiorockfm.com, lentamente le stiamo pubblicando sulla nostra pagina di MySpace, che vi consiglio di andare ad ascoltare quotidianamente, myspace.com/paneburrofm. Sembra che anche il buon Freak sia arrivato nei nostri studi, quindi pronti per l'almanacco del 9 di novembre, non dopo esserci gustati Deep Purple. Oh my. E sono le lunghe rotaie che dividono Bologna a Milano a mettere in contatto lo studio di Rock FM con il nostro rocker di riferimento, Roberto Fricantoni. Che vi saluta e vi auguro uno splendido venerdì. Thanks God, it's Friday. Eccolo là, 9 Quanto di novembre. L'abbiamo usata, ma è sempre valida. Sì, oggi farei l'almanacco così, d'amblè. Ma no, dai, no, evitiamo. Io invece andrei sull'almanacco. Ma facciamo l'almanacco, anche perché iniziamo con una notizia di quelle che mi fanno impazzire: i grandi incontri della storia. Yeah. Era il 9 novembre del 1961 quando un certo Brian Epstein, si ricorda chi è? Come dimenticarsi il grande chi è, Brian? Basta, chi era? È stato lo scienziato che ha inventato il neurone. Era il manager dei Beatles e proprio quest'oggi entrò in un locale che si chiamava Cavern, un locale di musica dal vivo di Liverpool, ascoltò i Beatles e a termine dell'esecuzione andò da Paul e da George Harrison a dire: ragazzi, vi va se vi faccio da manager? E loro dissero sì. Che roba, come se adesso ci chiamasse Pippo Baudo per dirci: ragazzi, vi va di presentare una prima serata su Rai 1? E noi diremmo sì. Sì, vi va di partecipare a Sanremo? Noi diremmo no. No, ci vogliamo andare. Non ci vogliamo andare, insomma. Passiamo. Ci sono delle scelte da fare. Bravo. Nel 1967 viene pubblicato a San Francisco il primo numero della rivista di cultura rock Rolling Stone, e torniamo a parlare di Beatles perché in copertina ci fu il mitico John Lennon con i suoi tipici occhialini. Lei sa che quegli occhialini quelli rotondi, sì. Esatto, i classici occhialini, sì, di John Lennon furono gli occhiali che passava, diciamo così, il corrispondente inglese della, sì, nostra mutua. Ah, sì? Quindi... e John, sempre molto spiritoso, arguto e autoironico, se li volle mettere in quanto, insomma, come un, sì, segno di, come dire, quasi di protesta, come per dire: anch'io sono un assistito, certo, della mutua. Dalle mie parti si dice un po', sono gli occhiali della mutua. Esatto. Perfetto. Gli occhiali della mutua. Bravo, Frick. Chiudiamo con una notizia riguardante la Guerra Fredda. Era oggi, ma nel 1989, quando cade simbolicamente e fisicamente il muro di Berlino che divideva la città dal lontano 1961. Interessa un mattone originale. Ma di cosa, Frick? Del muro di Berlino. Non parli. Cosa sta facendo lo spacciatore? No, assolutamente, però guardi in che 500 euro per questo pezzo di pietra. Mattone originale del muro di Berlino. Guardi. Ma c'è scritto Comune di Milano. No, adesso Frick. Comune di Milano è stato a posto successivamente. Sì, va bene. Guarda, no, rifiuto comunque. Glielo faccio anche a me, un'offerta speciale. No. Vuole grazie, una scheggia? Lo scheggiamo? No, una se scheggina? Lo sbagli, veramente faccio a meno. Grazie comunque. Pazienza, ma era un'occasione. No, immagino. E me, che c'è? Welcome to the Hotel California.